piano riprender fiato tra i profumi di primavera in questa notte di luce, e capirai quanto è bello sentirsi soli, raccontarsi un'altra vita persa dentro di noi. Mi chiederai quanto tempo è durata la notte, dove sono nascosti i tuoi sogni e quando ripartirai. E ci vedrai con i nostri pensieri un po' sparsi a raccogliere conchiglie di mare di sabbia. Ci troverai senza falsi eroismi nel cuore, a spargere ali nel vento e nel fuoco senza fare rumore. Di paura, ricorderai le risate di ieri e le riconterai. E capirai cosa è giusto e cosa è sbagliato, quanto costa provare speranza in un mondo cambiato. Ma ci vedrai con i nostri propositi chiari, profumati di terra, a imparar nuove lingue. E ci vedrai con i nostri sorrisi fioriti, a raccogliere conchiglie di mare di sabbia in una notte di luce. Con i nostri propositi chiari, increduli e vivi a parlare nuove lingue. E ci vedrai con i nostri sorrisi fioriti, a raccogliere conchiglie di mare di rabbia in una notte di luce. Che notte non è?